presenta con il semplice significato di ammutolire, tacere, porre fine al discorso. Ciò non impedisce tuttavia che alcune ricorrenze presentino un elemento o denominatore comune, ed è lo stupore, la sorpresa, il turbamento. Silenzio in queste circostanze equivale ad un essere afferrati dall'avvenimento, al punto da non trovare parole per reagire. È il caso dei tre apostoli sul monte della Trasfigurazione, secondo Luca, o degli scribi e dei sacerdoti che tentano di cogliere in fallo Gesù e restano ammutoliti di fronte alle sue risposte, o del cielo stesso, nel quale, secondo l'Apocalisse, capitolo 8, verso 1, il silenzio costituisce l'intermezzo sacro, quasi liturgico, tra la rivelazione del mistero della storia e la sua esecuzione. Silenzio, insomma, in rapporto ad un evento, il quale, al di là delle modalità contingenti entro le quali si manifesta, rimane comunque unico nella sua origine. Mysterion lo chiama Paolo, mistero radicato esso stesso in un silenzio sovratemporale, dal cui esce per fare irruzione nella storia. Ora, se le ricorrenze letterali scarseggiano, quelle tra esse significative permettono già di ipotizzare che se di silenzio si tratta nel Nuovo Testamento è soltanto in rapporto a quell'evento, a quel mysterion. È adesso pertanto che è opportuno volgere l'attenzione, e questo consentirà di cogliere, al di là del piano puramente filologico, la natura di quel silenzio. La parola, se nel caso di sighè, silenzio, la ricerca filologica approda a conclusioni necessariamente rapide, trattando di logos, rema, la parola, essa si muove in un ambito eccezionalmente vasto e perciò stesso ricco di sfumature, quindi di diversità di significati, che se poi si volesse considerare tutto il campo semantico relativo, con i verbi affini angelo, annuncio, Cristo, proclamo, martireo, attesto, cosa che io tralascio, ecco, tale ambito risulterebbe ulteriormente allargato e senz'altro anche più completo. Logos, parola, ricorre circa 330 volte negli scritti neotestamentari. E in oltre 200 di queste il termine indica il parlare divino. Rema, usato accanto al precedente, con il suo stesso significato, vi compare quasi 70 volte e per la maggior parte anch'esso in chiaro riferimento alla parola divina. Se le rimanenti ricorrenze riflettono una quantità di usi indifferenti, compreso il banale e semplice significato di cosa, la cosa, tipico del parlare comune, la stragrande frequenza di logos, rema, per indicare il parlare di Dio o di Gesù, permette di intuire due possibili conclusioni. L'una, l'eccezionale rilevanza dell'evento Gesù per coloro che ne furono testimoni. L'altra, la sua vitale significanza e intelligibilità. Parola, anche nel Nuovo Testamento, infatti, dice, come in ogni linguaggio, informazione, espressione e appello. Non v'è dubbio che nell'esperienza di quei primi testimoni fu la parola ad avere un ruolo prioritario. I dati letterari lo confermano. Se l'importanza determinante della parola traspare in tutti gli scritti, questo non avviene però in maniera indifferenziata o univoca. C'è un cammino di comprensione, anche in senso storico, cronologico, che carica il termine logos di contenuti e di senso. E in corrispondenza con esso c'è una testimonianza letteraria che rivela l'evoluzione e il culmine di una tale comprensione. Nell'ambito di questa ricerca lo si può riassumere in tre frasi, questo cammino della parola. Tre fasi chiaramente delineabili. l'esperienza della parola nell'evento storico Gesù, la sua risonanza e il suo acquisire significato e importanza nella primitiva comunità, il punto d'arrivo, il culmine del cammino di comprensione, quale attestato dal prologo del Vangelo di Giovanni. La prima fase, l'esperienza della parola nell'evento storico di Gesù. Nessuno ha mai parlato come lui, era il commento unanime delle folle che ascoltavano Gesù. Erano stupiti del suo insegnamento, parlava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. I sinottici sono concordi nel riferirlo. Da tale apprezzamento espresso dai testimoni alla memorizzazione delle parole del Maestro, il passo è breve. I Vangeli e i sinottici in particolare lo attestano. La cura e l'attenzione con le quali le parole vengono riportate ne sono la prova. Talune vengono addirittura consegnate nell'originale aramaico nel quale furono pronunciate. Luca, dal canto suo, afferma espressamente di aver vagliato la tradizione nel tentativo di raggiungere le fonti. Qualunque possa essere il motivo che anima un tale interesse, esso va cercato non tanto, o non anzitutto, in un rapporto di devozione e affetto che lega i discepoli al Maestro, quanto piuttosto nelle qualità stesse che nelle sue parole e nel suo agire furono riscontrate. Si parla infatti espressamente di exousia, potenza, autorità, e si intende riferirsi con ciò a quell'ascendente, tipico di tutta la sua persona, che sollecitava dagli interlocutori una reazione altrettanto tipica, la fede. La sua era una parola carica di autorità e di potenza, provocante e decisiva per l'uomo come soltanto una parola divina può essere. Non stupisce a questo punto udirlo affermare: anche se cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Ampia è la gamma di reazioni che essa suscita negli ascoltatori. Si va dalla meraviglia, dall'ammirazione entusiasta, fino all'estremo opposto rappresentato dal rifiuto o dallo scandalo. Chiara, peraltro, è la coscienza della sua efficacia in coloro che l'accolgono. Le molte affermazioni del Vangelo di Giovanni in proposito, benché non siano collocabili in questa fase storica quanto a formulazione, ciononostante hanno in questa originaria consapevolezza la loro radice. È una parola, quella di Gesù, che penetra nell'intimo dell'uomo che l'accoglie e vi rimane. Ne anima in tal modo l'esistenza da renderlo puro agli occhi di Dio, tanto da sottrarlo al condizionamento della morte e da collocarlo già fin d'ora nella sfera della vita. Giovanni non farà che esplicitare la convinzione stessa di Gesù, allorché attribuirà direttamente a Dio, il Padre, l'autorevolezza di quella parola. Qui si giustifica pertanto la cura e la sollecitudine della comunità primitiva per le parole del Signore. Cura e sollecitudine che, come è ben noto, vanno oltre una fedeltà puramente letterale. Ed è interessante prendere atto della libertà con la quale le redazioni evangeliche si muovono su questo terreno. Infatti, tutto l'evento Gesù è portatore di autorità e di rivelazione. Le parole si collocano sempre su uno sfondo di comportamenti, di atti, di gesti, che in linea con tutta la tradizione biblica del resto, fanno sì che il tutto assuma il carattere di parola, di rivelazione. A tal punto che, e vale la pena sottolinearlo, certi interrogativi, come quello del Battista sull'identità e sul ruolo di Gesù, trovano risposte non verbali, ma gestuali, e comunque cariche della stessa exousia, potenza, che si sprigiona dalle parole. Riferite a Giovanni quello che avete visto e udito. Parola e azione dunque si legano reciprocamente e trovano la loro unità nella persona che le pone. Nessuna delle due esiste separatamente dall'altra e tantomeno disgiunta dalla persona che la esprime. Tutta la persona di Gesù, ciò che dice e ciò che opera, la sua esistenza, tutto è percepito come rivelazione, manifestazione da parte di Dio. La seconda fase, la risonanza della parola, il suo acquisire significato e rilevanza nella primitiva comunità. Questa coscienza a cui ho accennato dell'inscindibile legame di parole e opere con la persona di Gesù, già presente come si è visto nei primi testimoni, fu come rafforzata e illuminata dagli eventi conclusivi dell'esistenza terrena del Signore: la morte di croce, la risurrezione, la glorificazione. Ne conseguì per la comunità primitiva una percezione che si tramutò presto in certezza. Quel Gesù che aveva sperimentato potente in opere e in parole, continuava ad essere misteriosamente, dinamicamente presente. To pneuma, lo spirito, questo è il nome con il quale tale misteriosa presenza viene definita. In tale contesto si guarda all'evento Gesù come a qualcosa di unico, tipico e irrepetibile, qualcosa in cui è risuonata la nuova definitiva parola di Dio agli uomini. Il termine Logos, allora, acquista risonanze nuove, senza nulla togliere al fatto che l'Antico Testamento è pur esso parola di Dio, vi è però la convinzione che è a questa nuova e definitiva parola che esso rimanda. A questa si riferisce, come al suo logico compimento. Parola di Dio ormai designerà la parola di Gesù, la parola su Gesù, il Vangelo, insomma. Tale è la testimonianza che proviene dagli Atti e dalle lettere degli Apostoli. La stessa terminologia assume a questo punto una formulazione che si potrebbe definire tecnica. Il termine o logos viene adoperato sovente in forma assoluta, senza alcuna aggiunta di specificazione, la parola. Ormai esso indica chiaramente l'evento di Gesù di Nazaret, storico, passato, è tuttavia perennemente attivo, in un dinamismo che la comunità continua a sperimentare. La parola del Signore cresceva e si diffondeva, afferma a più riprese Luca negli Atti. La comunità ne prende atto con ammirazione e trova ovvio riconoscerle il primato e l'importanza. E diaconia tu logu, il servizio della parola, sarà appunto questo il ruolo specifico degli Apostoli. Esattamente come nel tempo di Gesù, anche ora, nel tempo della comunità, la parola risulta efficace e portatrice di frutti. Riconciliazione, salvezza, grazia, vita, sono alcune specificazioni di tale fecondità che accompagnano sovente il termine logos negli scritti apostolici. Dio stesso, insomma, è all'opera nel kerygma degli Apostoli, così come lo era nell'evento storico di Gesù. E analogamente a quanto si è notato nel contesto di tale evento, anche in questa fase successiva emergono chiare due caratteristiche. L'aspetto vitale della parola, anzitutto, che non è in primo luogo un dato teorico tale da sollecitare un'adesione soltanto intellettuale, è piuttosto una comunicazione da persona a persona che mette in gioco la libertà del destinatario, il quale reagisce o con l'accoglienza della fede oppure con il rifiuto. In secondo luogo si dovrà notare la valenza operativa della parola. Essa richiede sempre di essere fatta, tradotta in gesti e comportamenti. Da interpellato allora l'uomo si fa ascoltatore, e da ascoltatore deve poi farsi poietes logu, esecutore della parola. Terza fase, il culmine nel cammino di comprensione della parola, quale è attestato nel prologo del Vangelo di Giovanni. La coscienza della comunità primitiva riguardo alla natura, alla densità della parola rivelata in Gesù, cresce e si perfeziona fino a trovare la sua espressione proprio qui, nel prologo di Giovanni. A questo punto si arriva ad affermare che il Logos, rivelatosi in quell'evento storicamente circoscritto, in realtà preesisteva presso Dio da sempre. En arche en logos, caio logos en proston theon. In principio era la parola, e la parola era presso Dio. Il valore dell'affermazione e quindi la novità apportata da questo testo non consiste tanto nell'identificazione della parola con Gesù Cristo. A questo era giunta, pur senza una formulazione così esplicita, la coscienza stessa della comunità primitiva. Tantomeno la preesistenza di lui può costituire la novità tipica del prologo di Giovanni. Anche di questa si hanno testimonianze nella tradizione anteriore. La vera novità offerta da Giovanni sta nell'identità che gli pone tra la parola e il Cristo preesistente. E quindi nell'affermare che l'evento Gesù altro non è che l'irruzione nel tempo e geneto della parola che fin da principio era presso il Padre. Parola, sia ben chiaro, che non si riduce ad una funzione o ad una caratteristica divina, ma che è una vera entità personale. Ci si è chiesti a questo proposito se e in che misura gli influssi culturali del vasto ambito ellenistico o del più ristretto mondo ellenistico giudaico trovino risonanza nell'annuncio giovanneo del Logos. Gli studiosi sono per la maggioranza concordi nell'escludere qualsiasi influsso di tal genere. Il testo, sia per la forma che per i contenuti, si motiva sullo sfondo di una cultura prettamente semitica, biblica. Ma al di là delle intenzioni dell'autore, è difficile, credo, escludere a priori un'apertura di senso nei confronti dei destinatari di lingua greca e del loro bagaglio culturale. Se il Logos in questione va inteso anzitutto entro la categoria biblica della parola, non si può impedire che anche i concetti meno biblici ma diffusissimi di senso, pensiero, significato delle cose, della realtà, vi trovino in qualche modo accoglienza. Resta vero comunque che l'intento dell'autore è tutt'altro che speculativo. Se il suo pensiero sconfina audacemente fin nella sfera di Dio, ciò accade perché l'evento storico di Gesù ha impresso alla sua riflessione un tale dinamismo che proprio là, nella sfera stessa di Dio, trova la sua definitiva battuta d'arresto. Se a tanto arriva l'ardire del testimone Giovanni, il motivo sta tutto nell'esperienza vissuta. Il Logos ter Zoes, la parola della vita, è stata da lui udita, veduta, contemplata e toccata con mano. In tal modo la primitiva comunità dei credenti osa testimoniare un dato che non può non essere prezioso da qualsiasi angolatura lo si consideri. Dio, colui che nessuno ha mai visto, è in se stesso relazione interpersonale, comunicazione, parola. Come tale ha fatto irruzione nella storia. Come tale è stato dagli uomini compreso e sperimentato. È così che la prima tra le categorie del linguaggio, la parola, appunto, diventa per i credenti in Cristo la via del mistero di Dio, nel suo dispiegarsi nel tempo. Qual è il ruolo a questo punto delle parole dell'uomo? In un contesto come quello del Nuovo Testamento, in cui la parola divina è così rilevante, è ovvio attendersi per le parole umane un'attenzione, una considerazione soltanto relative. È così, in effetti. La parola della rivelazione, la verità che Dio ha fatto conoscere, assurge a criterio di giudizio, vero e proprio discriminante delle parole degli uomini. Queste ultime, nella misura che prescindono da quella, si rivelano troppo spesso inconsistenti, vuote. Sono ben note a riguardo le sferzate polemiche di Paolo nei confronti delle parole dell'umana saggezza, prima lettera ai Corinzi, primi 4 capitoli. D'altronde, proprio per la sua prioritaria importanza tra tutte le forme di linguaggio e di comunicazione, la parola mette in gioco la libertà e la responsabilità dell'uomo. E pertanto è passibile di giudizio morale prima e più di qualsiasi altra funzione. Tutti manchiamo in qualcosa, afferma la lettera di Giacomo. Se uno non manca con la parola, costui è davvero teleios aner, un uomo perfetto. Un atteggiamento critico, quindi, quello del Nuovo Testamento. Si direbbe che la luce sfolgorante della parola divina evidenzia ancor più vistosamente le ombre e i tratti negativi della parola umana. Nello stesso tempo, però, possibilità nuove e inattese si aprono all'uomo che accoglie nella fede il Logos di Dio in Gesù Cristo. Nuove relazioni si instaurano e con esse nuovi tipi di comunicazione e di linguaggio. Il tutto all'insegna di una novità che coinvolge la persona alle radici stesse del suo essere. Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti voi eis, este, è in Cristo Gesù. Uno, un'unica entità siete in Cristo Gesù. Galati 3,28. E chi è in Lui è una creatura nuova. 2 Corinzi 5,17. Di tale novità risente il rapporto religioso, che colloca ormai l'uomo in una tale vicinanza, prossimità con Dio, da escludere ogni inutile verbosità nel parlare con Lui. Anzi, da rendere necessario un nuovo linguaggio, nuove parole, semplici ed essenziali. Pregando non sprecate parole. Quando pregate dite Padre nostro. Novità anche nelle relazioni interpersonali, dove la parola non ha più bisogno di caricarsi di animosità, di rivestirsi di sotterfugi, di tuffarsi nel torbido, onde risuonare efficace. Essa ormai germoglia da un terreno di verità e di chiarezza e coglie ogni interlocutore nell'ottica del fratello. Il vostro parlare sia sì quando è sì e no quando è no. Il di più viene dal maligno. Chiunque si adira contro il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano giovare a quelli che ascoltano. Anche la parola, dunque, come tutto ciò che è dell'uomo, subisce una trasformazione. Essa perde o quantomeno relativizza certe sue caratteristiche unicamente umane. E questo lo fa per commisurarsi all'essenziale, che è quella verità che si è manifestata in Gesù Cristo, il Logos del Padre. In tal senso si può parlare di un'autentica ascesi anche per la parola. Povera e scarna nelle forme, rivestita di semplicità, trae la sua forza nella verità e nell'agape, quelle che la suscitano. E questo in analogia con le parole dei Vangeli, povere e semplici anch'esse, e ciò nonostante intramontabili. Qual è allora il silenzio nel Nuovo Testamento? La centralità della parola divina negli scritti e nell'esperienza del Nuovo Testamento potrebbe indurre a pensare che non solo la parola dell'uomo, ma anche il silenzio, risulti secondario. L'analisi filologica, dal canto suo, come si è notato, potrebbe accreditare questa conclusione. Credo tuttavia che una statistica terminologica non sia criterio sufficiente in questo caso, se non altro perché il campo semantico relativo al silenzio risulta senz'altro meno circoscritto e definito rispetto a quello della parola. Del resto, alcuni dati della breve analisi delle ricorrenze hanno già permesso di intuire una caratteristica del silenzio nel Nuovo Testamento. Esso sembra definirsi in rapporto ad un evento. Un evento particolarmente importante ed unico nel suo genere. Tale evento, come si è potuto constatare, si concretizza nell'intervento del Logos di Dio tra gli uomini, sperimentato nell'apparizione storica di Gesù di Nazaret. Quale silenzio ne deriva? Le categorie temporali, prima, durante, poi, possono contribuire a definirlo. Prima di Gesù è un silenzio di attesa. La cultura giudaica immediatamente precedente al Nuovo Testamento si caratterizzava, oltre che per l'attaccamento alla Torah, per l'assenza della parola profetica. È silenzio di profeti. Un silenzio gravoso che equivale ad un vuoto, una nostalgia di parola che traspare anche dagli ultimi scritti veterotestamentari, vedi 1 Maccabei 9:27. E che è in ultima analisi il riflesso del silenzio di Dio. I cieli si sono chiusi, afferma il giudaismo di quell'epoca. Ci fu chi reagì a questo vuoto vagheggiando, con tinte più o meno fantasiose, un decisivo intervento di Dio. Ne derivò un'abbondante letteratura apocrifa che si caratterizza per i toni apocalittici. Povera, peraltro, sia da un punto di vista letterario che di contenuto, se la si rapporta al classico patrimonio dei profeti. Ma ci fu anche chi tramutò quel vuoto in attesa, sostenuto nella speranza dall'eco degli ultimi profeti. Un silenzio fatto proprio da una catena di generazioni di poveri e di umili che confidavano nel nome del Signore, come si esprime Sofonia 3:12. Silenzio arduo, estenuante, nel quale la fede rischiava di indebolirsi, se lo lascia intravedere Luca, capitolo 1, verso 20, ma che ciononostante non cedeva alla tentazione di pronosticare a Dio modalità e scadenze di intervento. Alcune figure di questa catena silenziosa ci vengono offerte dai Vangeli dell'infanzia. Zaccaria, anzi, il padre di Giovanni Battista. Zaccaria è, per così dire, il simbolo di questo silenzio estenuato. Egli deve addirittura rivivere in un mutismo obbligato l'attesa di tutto quel popolo di umili che l'ha preceduto. Alla fine non è più la sua parola quella che ritorna, ma una parola nuova, animata dallo Spirito Santo, che si fa cantico ed esplosione di gioia. È così anche per il vecchio Simeone e per Anna, l'anziana profetessa. Il silenzio dell'attesa, ormai nell'imminenza dell'evento, sfocia nell'esultanza di parole nuove che assumono le forme del cantico. Silenzio in presenza dell'evento. Questo è silenzio di accoglienza, di contemplazione. Nel poema delle quattro notti, contenuto nel Targum palestinese, a commento, allora che si commenta la notte della Pasqua, si afferma che i grandi interventi di Dio nella storia degli uomini si attuano regolarmente nella notte. Tre di essi erano già stati registrati dalla tradizione giudaica. Il quarto sarebbe stato il più importante, quello che avrebbe messo termine alla storia. La notte è silenzio di uomini e di cose. È spazio libero per l'agire sempre sorprendente di Dio. Luca colloca appunto nel silenzio della notte quel fatto iniziale che è la nascita di Gesù. E tutti i Vangeli, narrando del sepolcro vuoto all'alba del primo giorno della settimana, il fatto conclusivo, lasceranno intuire che quel sepolcro si è aperto nella notte. Notte e silenzio costituiscono il quadro ideale per il protagonismo di Dio. Ma l'evento della parola che, irrompendo nella storia umana, coglie sempre comunque di sorpresa, suscita a sua volta altro silenzio. Maria, la madre di Gesù, lo sperimenta dapprima come turbamento. E allorché l'evento da imminente si fa presente, il suo diventa un silenzio pieno, un silenzio abitato, dove fascino, stupore, turbamento aprono la via a un costante meditare. Ce lo riferisce Luca almeno in due riprese, capitolo 2, versi 19 e 51. E turbamento è anche il silenzio di Giuseppe, se non altro per quell'alternanza di eventi, tutti a loro modo preoccupanti, di cui si riferisce Matteo nei primi due capitoli. Il suo ruolo, anche per la mancanza di successive informazioni nei Vangeli, è definito in termini di presenza sollecita e silenziosa nel dispiegarsi dell'evento parola. Nel silenzio del deserto, Giovanni Battista si predispone alla missione di precursore, Luca 1, verso 80. Ed è nel deserto che grida quella voce, allorché è giunto il momento di preparare le strade. Gesù stesso, colui che incarna la parola nella sua persona, prepara la sua manifestazione con lunghi anni di vita nascosta e silenziosa. Luca, capitolo 2, versi 51-52. Si direbbe che la parola ha bisogno di acquisire familiarità e dimestichezza con la quotidianità degli uomini nel silenzio di Nazareth, prima di manifestarsi al mondo. E allorché i cieli, chiusi da secoli, secondo la mentalità giudaica, finalmente si aprono e ne esce la voce del Padre, allora la parola inizia la sua manifestazione. Ma non senza averne soppesato modalità e portata nel silenzio del deserto. Gesù fu spinto dallo Spirito nel deserto. Lui è la parola che rompe il silenzio di Dio. L'affermazione è di Ignazio d'Antiochia. Autu logos aposiges proezon. Anche la sua manifestazione, potremmo dire, germoglia dal silenzio. Questa è una costante, insomma, nel ministero di Gesù. È lo spazio di gestazione delle grandi rivelazioni. Vedi Giovanni 6, verso 15, e tutto il discorso che segue. È tempo di preparazione per decisioni importanti, come la scelta degli apostoli, Luca 6, 12. È occasione di dialogo con Dio, Padre suo, Luca 11, 1. Se è vero che il silenzio è essenziale per l'emergere della parola, Gesù di Nazareth ne è testimone col suo comportamento. Né diversamente possono fare gli uomini, i discepoli. Quell'insperata vicinanza con Dio, entro la quale si trovano collocati, richiede solitudine e silenzio perché la preghiera possa scaturire. E di silenzio è anche la reazione umana, allorché la manifestazione della parola assume tonalità tipicamente divine. Sul monte della Trasfigurazione, i discepoli rispondono soltanto in questo modo a ciò che gli è stato concesso di contemplare. Luca 9, 36. Nemmeno gli avversari di Gesù, coloro che cercano di coglierlo in fallo, possono sottrarsi dal soppesare in silenzio le sue risposte. Luca 20, 26. Silenzio dopo l'evento Gesù. È il silenzio dell'ascolto per una nuova attesa. Dopo aver caratterizzato la prima attesa e l'impatto con la parola presente tra gli uomini, il silenzio caratterizza anche la fase successiva, fase necessaria del resto, nella quale l'eco di un evento tanto eccezionale ha quasi necessità di trovare risonanza. Negli intenti descrittivi di Luca, il già accennato atteggiamento di Maria fa da modello in tal senso a tutta la comunità dei credenti. Il silenzio è ascolto, ruminio della parola mai totalmente compresa e attuata. Ed è anche l'atmosfera del regno, paragonato al seme che cresce di notte e di giorno, al di là di ogni clamore o prestazione umana, e l'uomo stesso non sa come accade. Marco 4, 26. Per i discepoli il silenzio è veglia, attesa vigile e notturna del ritorno del Signore. Scorre infatti tra due poli la loro esistenza. Il primo è rappresentato dall'incontro con il Signore e dal coinvolgimento nella sua sequela. L'altro, contrapposto, sarà caratterizzato dal suo ritorno. L'uno si rapporta all'altro in una tensione di inizio e di compimento. L'uno è la garanzia che anima l'attesa dell'altro. Di notte l'attesa può diventare estenuante, i discorsi cessano e il silenzio può scadere e diventare sonno. L'unico motivo che può tenere desti è l'affetto di amicizia, la fedeltà al Signore e il desiderio appassionato del suo ritorno. Un silenzio quindi abitato e come tale contemplativo, ma non pieno. Esso reca ancora i connotati dell'attesa, del desiderio, desiderio di pienezza, di compimento. Ed è ancora la parola ad avere in questa fase un ruolo prioritario. In quanto testimonianza di ciò che è davvero accaduto, essa trasforma quel silenzio in ascolto contemplativo. In quanto garanzia e promessa, ne rinvigorisce la speranza e ne tiene desta l'attesa. È ad essa che dovete volgere l'attenzione, esorta l'Apostolo Pietro, come a lampada che brilla nell'oscurità finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Alcuni elementi di sintesi. Il silenzio, anzitutto. È evidente da tutti i dati emersi da questa relazione che il silenzio nel Nuovo Testamento non ha valore per se stesso, ma unicamente in rapporto all'evento fondamentale che è costituito dall'epifania della parola divina. In relazione a tale evento il silenzio si caratterizza come attesa o come ascolto contemplativo oppure le due cose insieme. La sua esperienza può essere gratificante, ma può anche rivelarsi estenuante e faticosa, specie quando l'attesa si protrae o l'agire divino si offre in forme e categorie che sorprendono e infrangono i limiti della logica umana. È ciò nonostante l'ambito privilegiato dell'intervento divino, soprattutto quando quest'ultimo si qualifica come dono, libero e gratuito, indipendente da qualsiasi umana prestazione. Il silenzio, così come attestato dalla primitiva tradizione evangelica, è il presupposto indispensabile per il germogliare della parola vera, ed è al contempo lo spazio essenziale per la sua risonanza e per la sua comprensione. Non è un silenzio vuoto, è un silenzio abitato, ma la presenza che lo abita non lo riempie ancora totalmente. È aperto, pertanto, su un compimento che ancora non è concesso, ma soltanto promesso. Il silenzio, quindi, è anche povertà. La parola. La sua indiscutibile rilevanza all'interno del Nuovo Testamento è provocata dall'evento che fonda l'esperienza cristiana e che appunto come manifestazione suprema della parola è stato compreso e interpretato. Tale parola è inseparabile dall'azione. La richiede come un dato essenziale, indispensabile alla sua veridicità e ambedue, parola e azione, si riallacciano, si comprendono nell'unità della persona che le pone. così caratterizzata e personalizzata, la parola si indirizza a sua volta alla persona dell'interlocutore, ne mette in gioco la libertà, attende di essere accolta e tradotta in azione. L'apporto più notevole del Nuovo Testamento a questo riguardo è dato dall'intuizione che anche Dio è in se stesso parola. E questa, d'altro canto, e al suo massimo grado di concentrazione, è vera entità personale, carica di senso, di volontà, di vita, e come tale si offre agli uomini. Il suo giudizio sul linguaggio umano è estremamente critico, ma al contempo gli dischiude possibilità nuove, modellate sull'essenziale della verità e dell'agape. Quali contributi da parte del Nuovo Testamento ai fini di questa ricerca interdisciplinare? Solo la discussione, il confronto li potrebbe nucleare in maniera obiettiva. Alcuni dati tuttavia si impongono con sufficiente evidenza. Meglio sarebbe dire si propongono con tutta la discrezione e il peso di una testimonianza. Il Nuovo Testamento attesta la validità del silenzio. Nella misura in cui si apre all'attesa, alla ricerca, esso non è mai né vuoto né sterile. E anche se abitato da una presenza, ciò nonostante non recede dall'attesa e dall'apertura ad un più grande compimento. Riguardo alla parola, la testimonianza neotestamentaria la riconosce suscettibile di giudizio, di trasformazione, di conversione, come tutto nell'uomo. E il criterio di tale giudizio non è desunto dalle forme o dagli accenti dei quali essa si riveste, ma dalla solidità e dal valore dei motivi che la ispirano. Seppure potente, quale quella di Dio, la parola tuttavia non è mai violenta. Non si impone con forza irresistibile. Essa quindi accetta il rischio della povertà e della debolezza, a salvaguardia della libertà dell'uomo e a riprova della vera inaudita trascendenza divina. Grazie. Ringraziamo il professor Pietro Rattin di questa suggestiva relazione ricca di originali e importanti riflessioni. Posso dire di conoscere la letteratura del silenzio come le mie tasche, avendoci lavorato negli ultimi 4 anni molto. Ecco, devo dire che la sua relazione mi ha fatto capire cose che la letteratura sino ad oggi esistente sull'argomento ancora non ha colto compiutamente. Quindi indubbiamente la sua relazione contiene un approfondimento in questa direzione di grande interesse.